alla tua casa, ci fermiamo per un po' di se, stringendosi a una luce dei miei occhi, scivolo dentro al mio letto senza accorgersi che il mondo è.